the phone, someone pass the phone. What shall we try to make July? What shall we try to make July? When you call me at home, you said you lived on your own, just dreaming of me. When I called you at home, someone else picked up the phone. It was Sì, siamo alla 198esima puntata di Coxo Spaziale, vicinissimi a raggiungere quota 200. Alone without you, solo senza di te, ovvero io solo senza Fedra, di nuovo a registrare Coxo Spaziale in giro, visto che anch'io ho problemi di tempistica. Fedra è impegnatissima, come sapete questa settimana ha anche performato all'ippodromo dell'Arcoveggio, speriamo che sia andato tutto bene. Io purtroppo ero a Torino e non mi sono potuto spostare da tutti gli impegni che ho, i miei impegni viaggianti. E nella 198esima puntata di Coxo Spaziale, che è questa, come al solito siamo registrati, per cui ahimè fuga per art, non ci telefonare, non ci messaggiare, perché non possiamo leggere i tuoi messaggi, e questo vale anche per tutti gli altri. Salutiamo Raio e la Susi, che sicuramente ci staranno ascoltando. I nostri, noi abbiamo questo zoccolo duro di ben tre radioascoltatori che ringraziamo sentitamente per poter continuare la nostra esistenza. E dicevamo, questo era Paul King, anzi no, questi erano i King, che probabilmente, se siete vecchi quanto noi, quanto me, ricorderete in questo video in cui loro andavano in giro con queste vespe scassate in giro per la Grecia, vestiti da super punk. Erano gli ultimi anni 80, se non sbaglio era il 1987, e appunto cantavano Solo senza di te. Dopodiché Paul King, cioè questa piccola parabola musicale di musica anni 80, la musica anni 80 in Inghilterra è stata molto interessante, sicuramente ha avuto episodi che ora rimpiangiamo, sembravano delle stupidaggini, mentre invece adesso alle volte le rimpiangiamo. Poi vabbè, questo fa naturalmente molto parte del invecchiare e rincoglionirsi, cosa che io sto facendo abbastanza bene. Dicevamo, Paul King, dopo finita appunto la sua carriera musicale, si è messo a fare lo speaker televisivo, anzi il presentatore di programmi musicali su MTV, e fra l'altro faceva anche molto ridere. Io in quel periodo abitavo in Inghilterra e avevo l'occasione ogni tanto di guardarmelo per la televisione. Dopodiché è scomparso e non ho più pallida idea di che cosa sia successo a lui. Magari, chissà, una di queste volte apparirà in una di queste trasmissioni terrificanti in cui vediamo Tony Hadley 180 kg ma cantare ancora. No, dicevo, mentre invece altri grandi cantanti degli anni 80-90 hanno intrapreso la carriera di conduttore radio o televisivo, tra cui appunto Charis Matthews, che era la frontwoman anzi dei Catatonia, con questa voce fantastica, veramente tra l'acido punk e il dolcissimo, che vi voglio appunto far sentire. Spesso vi suono i pezzi di Catatonia, siamo di nuovo in tema nostalgico, siamo negli anni 90 e appunto volevo farvi sentire questo pezzo cantato appunto da Charis Matthews, che ora conduce un programma radio sulla musica folk predominantemente americana, di domenica mattina su BBC4, che si sente naturalmente online, per cui vi invito ad ascoltarla. Ci fa sentire cose molto interessanti, abbastanza, per quel che mi riguarda, abbastanza lontane da quello che è il mio gusto personale, ma comunque degni di essere ascoltati. Eccola. Usha la la la la la la. Usha la la la la la la. Tedium is overcome from obscurity to melody, and when I'm blind it helps me see. Yeah. come sentite siamo di nuovo in studio da Coxo Spaziale. Sono in realtà in giro per Torino. Il rumore che sentite è la mia valigia. Non male, Caris Matthews, eh? Molto bene. Siccome non ho tanto da raccontarvi, no, non è vero, ieri sera sono andato all'inaugurazione della GAM, la Galleria d'Arte Moderna, che aveva una mostra su Massimo D'Azeglio. Il ritratto di Massimo D'Azeglio, dopo ne parleremo un po' meglio. Vi faccio sentire qualcos'altro intanto. They're really rocking in Boston and Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas and round the Frisco Bay, all over St. Louis and down in New Orleans. All the cats wanna dance with sweet little 16, sweet little 16. She just got to have about a half a million, a famed autograph. Her wallet filled with pictures, she gets them one by one. Become so excited, watch her look at her run, boy. Oh, mommy, mommy, please may I go? It's such a sight to see somebody steal the show. Oh, daddy, daddy, I beg of you, whisper to mommy, it's all right with you. 'Cause they'll be rocking on bandstanding Philadelphia, PA, deep in the heart of Texas, around the Frisco Bay, all over St. Louis, way down in New Orleans. All the cats wanna dance with sweet little 16. She's got the grown-up blues, tight dresses and lipstick, she's sporting high-heeled shoes. Oh, but tomorrow morning, she'll have to change her trend and be sweet 16 and back in class again. But they'll be rocking in Boston, Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas and round the Frisco Bay. Coxo Spaziale. Dicevamo dunque, la mostra Il ritratto di Massimo D'Azeglio, questa alla Galleria d'Arte Moderna di Torino, che ha inaugurato il 29 novembre. Un mistero svelato a cura di Virginia Bertone. Leggo dal comunicato stampa. Nata da un lavoro di ricerca condotto su fonti e documenti d'archivio, questa piccola mostra preziosa offre l'occasione per scoprire il lavoro di indagine volto a costruire la storia di un dipinto e a comprenderne il significato nella cultura e nel suo tempo. Ne è protagonista un capolavoro della cultura romantica, sinora noto come Autoritratto di Massimo D'Azeglio, acquistato nell'estate del 2016 dalla Fondazione Guido de Ettore De Fornaris per le collezioni della GAM. In realtà si è scoperto appunto che quel ritratto non era un autoritratto di Massimo D'Azeglio, bensì un ritratto fatto dal suo amico Giuseppe Molteni. Dipinto da Giuseppe Molteni, il ritratto di Massimo D'Azeglio, tra parentesi ritratto d'uomo, offre lo spunto per ripercorrere un momento centrale nella carriera dei due artisti. Attraverso l'intensità dello sguardo, il ritratto restituisce tutto il fascino di un artista maturo che aveva ormai assunto a Milano un indiscutibile ruolo di primo piano. Quest'immagine carismatica di Massimo D'Azeglio si inserisce in modo felice nell'ampio patrimonio che la GAM conserva di questo artista. Una collezione che ammonta a 266 dipinti e a 28 album che contengono oltre 1300 disegni, per la maggior parte provenienti dall'ascito di Emanuele Tapparelli D'Azeglio, nipote di Massimo. C'è un catalogo edito da Silvana Editoriale che accompagna la mostra, a cura appunto di Virginia Bettoni e Alessandro Botta. Se per caso vi capita di andare, di essere a Torino, alla Galleria d'Arte Moderna, oltre a una bella mostra sulla pop art con opere prese dalle collezioni della GAM, non mancate di visitare questa, perché effettivamente devo dire che più vedo cose del 1800, come la fantastica mostra alla Pinacoteca Albertina e alla Fondazione per le Arti Decorative a Corsio Metto, sempre a Torino, di Giacomo Grosso, che è una mostra fantastica e dura fino ai primi di gennaio, per cui se andate in quella città vi consiglio di non mancare nemmeno questa. Dicevo appunto, questo periodo più lo guardo in mostre interessanti che vedo a Torino e più diventa affascinante, e più un po' capisco, dicevo, vedere opere del 1800, vedere questi sguardi molto italiani tra l'abbandonato e il compunto, tra lo speranzoso e il disperato. Mi fa un po' capire di più questo paese, che ha tante pecche ma sicuramente ha moltissime curiosità. La mostra sta su fino al 25 febbraio, Wunderkammer GAM, ovvero i basamenti della GAM. Troverete disegni, dipinti e un sacco di altre informazioni. Io purtroppo ero di fretta, per cui l'ho guardata molto velocemente, ma spero di poterci tornare. E niente, così concludo qui questa piccola parentesi torinese, dovuta dal fatto che purtroppo il nostro tempo stringe e dunque uniamo l'utile al dilettevole. Dentro un cuore cosa c'è? strano sapore. Forse è solo dolore, vedrai che passa. Non è ancora sonno, non è solo stanchezza. Avessi un braccio lungo abbastanza per farmi una carezza. Da una visita a un posto occupato nella Cavallerizza Reale, che è questo posto a Torino che, come dice la parola stessa, era la Cavallerizza Reale, che è stato occupato qualche anno fa, e un po' di persone l'hanno appunto occupato per compiere azioni culturali di cui comunque questa città ha bisogno. All'interno di questo spazio, questo parco, c'è un bastione, un piccolo bastione che è stato preso di mira da un gruppo di artisti e studenti dell'Accademia di Belle Arti di Torino, dove appunto hanno fatto una serie di installazioni molto particolari, e c'è un'atmosfera fantastica, oltre ad avere un ottimo camino che scalda i cuori e anche la pelle, visto che in questi giorni a Torino c'era un freddo becco che si moriva davvero, ma ho visto dei lavori molto interessanti. Detto questo, appunto, non ve li posso far vedere perché siamo in radio, e magari su www.coxospaziale.blogspot.com da sabato troverete, da domani troverete qualche foto, così per darvi un'idea di quello che succede in questa città abbastanza particolare, misteriosa e indubbiamente culturalmente attiva. Per quel che riguarda l'arte contemporanea, devo dire che Torino è una delle città che si comporta meglio di tutti a livello artistico, storicamente, già dagli anni 50, ma anche in questa fine del secondo decennio degli anni 2000. it leaves me undone. Too clever by half for some. Save me from my tongue. Save me, save me, save me. Save. Sometimes I need a little help. Sometimes I need a little help. Sometimes I need a little help. Sometimes I need a little help. Sometimes I need a little help. Una canzone triste e struggente, Save Me, dei Right Said Fred. Non so se ve le ricordate, I'm Too Sexy For My Shirt. Questi erano gli autori di questo pezzo. Non ho capito perché me li sono ritrovati nel mio hard disk, presumo di averli salvati in qualche modo. L'album si chiama Exactly Web ed è di quest'anno, del 2017. Questa era Save Me. E dunque siamo arrivati appunto al fantastico... L'angolo della menzione. La prima menzione ve la leggo direttamente dalla stazione di Torino Porta Nuova. Domani, sabato 2 dicembre, alle ore 18, al Mambo, Museo d'Arte Moderna di Bologna, Corraini Mambo Art Bookshop ospita la presentazione del volume Liuba Performance Objects, edito da editrice Quinlan Around Photographer. In edizione di 200 copie numerate e firmate. A dialogare con l'artista Liuba, Cristina Principale, storica dell'arte e curatrice, editor per la rivista scientifica Psycho Art, la psicologia dell'arte a Bologna, dell'Università di Bologna. Mark Bartlett, ricercatore e scrittore, già professore al California College of Art a San Francisco e presso la University of the Creative Arts in Inghilterra. Il volume si costituisce di 20 ritratti fotografici di oggetti utilizzati da Liuba per compiere alcune delle sue performance. Un'introduzione di Liuba e un testo di Luca Panara accompagnano le immagini. Molto bene, questo è al Mambo domani alle ore 18. Scusate, da Corraini nello spazio del bookshop del Mambo in via Don Minzoni, non mi ricordo, ma penso 16. Spero che si sia capito qualcosa, comunque andiamo tutti nello spazio espositivo di Corraini di fianco al Mambo domani. Mentre invece sempre domani abbiamo, sempre dalle ore 18, David Medalla, Locus Solus, omaggio a Arthur Rimbaud. Scusate il mio francese, continuo a studiarlo con Duolingo ma con pessimi risultati. Dicevamo, inaugura domani alle 18 alla Galleria Enrico Astuni la mostra a cura di Lorenzo Bruni. Il progetto Locus Solus, omaggio a Arthur Rimbaud di David Medalla, è costituito da dipinti, disegni, foto di performance e grandi installazioni al tubo di neon realizzate appositamente per l'occasione. Devo dire che la grammatica di questa frase, presa di quella di pacca dal comunicato stampa, lascia un po' a desiderare, ma sicuramente la mostra invece varrà la pena di andare, anche perché Enrico Astuni spesso e volentieri fa dei fantastici opening con ricchi premi e cotillon. Questo in via Jacopo Barozzi 3, di fronte praticamente all'autostazione, e il sito è www.galleriaastuni.net, nel senso che ci sono due A, ma lo troverete naturalmente domani per iscritto, da domani mattina lo troverete sul sito www.coxospaziale.blogspot.com, assieme a tutto quell'altro che abbiamo menzionato in questa fantastica puntata misto Torino-Bologna. Invece domenica alle ore 18, 3 dicembre, a Precu, mostra personale di Patrizia Giambi, introduce Lisa Emiliana, storica dell'arte. La Precu è una nozione complessa e fragile in ambiente psicanalitico. Si intende un momento che è ad un tempo traumatico, il colpo, e trasformatore, a pre, un significato che si produce con dopo. Patrizia Giambi raccoglie e presenta 30-40 lavori di piccolo e medio formato di varie epoche del suo percorso, per lo più inediti, accomunati dall'aver saputo fermare su carta o tela il sorgere dello spunto, una pre-idea che ha generato lo sketch, lo scarabocchio, la traccia, l'abbozzo. Lo spunto dunque, sia che si presenti con un impeto perentorio irresistibile, sia che timidamente emerga come un semplice suggerimento, viene qui detto come la risposta a un'attesa, ed è proprio accogliendolo che lo spunto può presentarsi e agire nella sua indipendenza, quale cifra dell'intimo io dell'artista, e condurre alla formazione dell'opera. La formazione dell'opera d'arte è un puro tentare. Se non si limita ad eseguire qualcosa di già ideato, o a realizzare un progetto già stabilito, o ad applicare una tecnica già predisposta, il fare artistico è un formare l'opera, è un fare che mentre fa inventa il suo modo di fare sperimentale. Questa mostra da non perdere assolutamente. Patrizia Giambi è un'artista eccezionale, è al Circolo Sersanti di Piazza Matteotti a Imola. La mostra inaugura domenica alle ore 18 dal 3 dicembre e sta su fino al 29 dicembre, tutti i giorni dalle ore 13, e questo è al Circolo Sersanti di Imola. E così abbiamo finito le nostre menzioni. Il nostro coxo spaziale procede, chissà se sta venendo a nevicare, non lo sappiamo perché questa trasmissione, come forse ho detto prima, ma forse anche no, è registrata, per cui non possiamo prevedere com'è il tempo in questo momento. Il motivo per cui la trasmissione è registrata è perché la nostra cara Fedra lavora tutti i santi venerdì e mia moglie pure, per cui siamo diciamo costretti in casa e ad ascoltarci, ci autoascoltiamo, ammetto di non stare autoascoltandomi molto bene, e non vi dico il nostro numero di telefono, ma vi lascio un www.coxospaziale.blogspot.com e un coxospaziale@gmail.com per comunicare con noi, altrimenti naturalmente c'è la nostra pagina Facebook www.facebook.com/coxospaziale. Insomma, ne avete. A parte che se cercate coxo spaziale su Google non trovate altro che noi altri. I due minuti di Lolli hanno una durata percepita variabile. Papiro. Che può aver preso il papiro? Il papiro. Eppure assolutamente inutile. Papiro. A chi sta il papiro? Le papyrus. Le papyrus. Of papyrus. C'è una preziosa mappa di papiro. E questo sarebbe il papiro di cui si parla tanto. Allora. So this is the papyrus that I've read so much about. Por breve que sea el barco que pasemos en este tiempo, nos parecerá demasiado largo allí. En la montaña, tal como señala el papiro, al final de los pasadizos que en su tiempo condujeron a la tumba oculta de los faraones. Allora, mi interessa perché bisogna guardare non alle cose visibili, ma alle invisibili che sono eterne. Ecco il cioccolato e il whisky. Of papyrus. Allora, nella montagna segnata sul papiro, oltre i passaggi che portavano... Here, in the mountain marked on this papyrus. Hier in dem Berg gekennzeichnet auf diesem Papyrus. Of papyrus. Papiro. I'm sorry, would you say that again, sir? Würden Sie das bitte nochmal wiederholen, sir? Monsieur, vous voulez bien répéter ce que vous venez de dire? Mi dispiace ripeterlo ancora. Puede repetir lo último que ha dicho? Allora, che può aver preso il papiro? Il papiro. Eppure assolutamente inutile. Papiro. Una chiave. Quando riuscirò a trovare la serratura adatta, adatta, adatta, adatta, adatta, avrò la risposta. Già finito? E salutiamo il nostro caro Riccardo Nolli con, inaugurando appunto, abbiamo di nuovo reinaugurato la sua fantastica serie di Due Minuti di Lolli, che si è arenata alla puntata numero 56. Questa era di nuovo la numero 1, che forse abbiamo ascoltato più di una volta, proprio per ricominciare le repliche. Fra 56 settimane, ovvero fra un anno, magari il nostro amico Riccardo riuscirà a continuare la sua fantastica serie. Vi ricordo che il nostro amico è sempre presente nei microfoni di Radio Città Fujiko al giovedì, se non sbaglio a mezzanotte, effettivamente potevo controllare prima di raccontarvi questa cosa, con il suo fantastico programma Uova Sode e Noci. Questa era Jenny Hval, presumo si pronunci così, H-V-A-L, H-V-A-L, per cui la pronuncio Hval. Il pezzo si chiamava Why This e viene da un disco del 2015 chiamato Apocalypse Girl. Sono Margherita Pepe e sto ascoltando Coxo Spaziale. Creatività generica. Che altro dirvi? Vedremo se la prossima settimana riusciremo a riavere Fedra in redazione oppure se dovrò di nuovo raccontarvi la mia settimana in giro per tra Torino e Bologna. Volevo anche farvi questa altra menzione, ovvero mi è arrivato da poco per email il comunicato che sono aperte le iscrizioni per il workshop I linguaggi del corpo tra forma ed espressività tenuto da Mona Lisa Tina ad Adiacenze, quando dal 13 e il 14 gennaio 2018, dove è ad Adiacenze lo spazio espositivo in vicolo Spirito Santo 1B, leggiamo il workshop I linguaggi del corpo tra forma ed espressività condotto da Mona Lisa Tina accoglie e propone un'esperienza estetica ampia che integra il linguaggio della performance art di matrice contemporanea alla disciplina dell'arte terapia. A partire da una serie di riflessioni sulle teorie storiche del linguaggio performativo nelle arti visive, dalla fine degli anni 60 a oggi, la conduttrice desidera sollecitare il partecipante alla realizzazione di performance spontanee e coreografie corporee originali, sia attraverso l'utilizzo di una vasta scelta di materiali artistici, sia attraverso l'utilizzo di oggetti scelti e opportunamente allestiti negli spazi di adiacenze. Questa modalità espressiva, che possiamo definire performance terapia, è un'ulteriore tecnica di arte terapia che stimola il processo creativo dell'individuo ad esprimere, soprattutto attraverso il linguaggio del corpo, sentimenti e vissuti delicati da spiegare con le parole, ma che con la performance artistica riescono a emergere con più facilità. In un contesto accogliente e privo di giudizio, ciascuno è invitato a mostrare la propria performance al gruppo e a condividerne i feedback là dove possibile. L'attività propone infatti, oltre performance individuali, azioni a due persone e di gruppo come restituzione dell'intera esperienza. Per informazioni consultate il nostro www.coxospaziale.blogspot.com, dove troverete tutto quanto, il link per iscrivervi a questo workshop. Vi dico già i prezzi: il costo complessivo del seminario 85 euro, solo sabato 13 gennaio 55, solo domenica 14 45. Dopodiché nel link che vi mandiamo troverete tutte le informazioni. Io ve lo specifico, non ho nulla a che spartire con Adiacenze, semplicemente sono un ottimo spazio espositivo qui a Bologna e visto che Mona Lisa Tina è un'ottima artista che si occupa di performance e di cui ho avuto la possibilità di vederne alcune, e ve lo consiglio caldamente, soprattutto quelli di voi che si vogliono un po' avvicinare alla performance, non avendone magari le basi per affrontare questa cosa. Naturalmente vi invito anche, quando possibile, quando succede, di andare a vedere la nostra cara Fedra e le sue performance, come ha fatto mercoledì scorso, il 29 novembre, negli spazi dell'ippodromo Arcoveggio. Io l'ho mancato, ahimè, appunto perché ero in giro per Torino con la mia simpatica valigia rumorosa. Molto bene, e a questo punto direi che vi saluto, è stato bello avervi qui, speriamo di ritrovarvi venerdì prossimo, sempre sugli schermi, ma sempre sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Questo era Coxo Spaziale, programma di Fedra Boscaro, che oggi non c'era, e Stefano V. Pasquini, che sarei io. Vi ringrazio per l'attenzione e ci risentiamo venerdì prossimo, l'8 dicembre. Ah, è festa, molto bene. Allora magari riusciamo a fare un live, chissà, vedremo. Ciao. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. A black hole. I tried to close my eyes to feel less alone. Now that I've found you, all the stars have come out. All the stars have come out. And when I look up, see the Milky Way, I understand life in small piece of a small piece of a small piece. Then you showed me how to laugh about all the big things. Focus on right now.